Ricordati, Signore, che le nazioni della terra, che il tuo favore e il tuo amore siano versati sopra ognuno di noi. Ricordati, Signore, che noi siamo i tuoi figli. Per misericordia nostra, sana la nostra terra. Clamiamo a te, Signore. Clamiamo a te. Ricordati, oh Signore, delle nazioni della terra, ricordati che il tuo favore e il tuo amore siano versati sopra il mondo, oh Signore, nella tua bontà. Ricordati, nella tua bontà, ricordati. Signore, tu un giorno hai fatto un patto con l'uomo. Tu sai che sei un Dio di patto. Signore, so che abbiamo mancato con il nostro. Signore, in questa sera, guarisci i nostri cuori e la nostra terra. Te lo chiediamo, Signore. Clamiamo a te per guarigione. Ricordati, oh Signore, delle nazioni della terra, ricordati che il tuo favore e il tuo amore siano versati sopra. Ricordati.